La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. L'articolo 66 rappresenta una ulteriore garanzia della piena autonomia delle Camere. Infatti, la verifica dei titoli di ammissione dei componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità spetta a ciascuna Camera. Questo cosa significa? Che è lo stesso Parlamento, quindi la Camera per i deputati e il Senato per i senatori, a dover verificare la piena compatibilità fra il titolo di parlamentare e le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità. A cosa serve questa riserva nella verifica dei poteri? Serve ad evitare ingerenze esterne di altri poteri nella gestione del Parlamento. Quindi è una piena garanzia di indipendenza e terzietà del Parlamento. È interessante notare come spetti al Parlamento non solo la verifica dei titoli in sede di ammissione e quindi in sede di elezione, ma spetti anche quella della sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Cosa accade in pratica? Quando si viene eletti, sarà lo stesso Parlamento a verificare che l'eletto abbia tutti i requisiti per rendere valida la elezione. Lo stesso accade se invece nel corso del mandato per l'eletto, a quel punto deputato senatore, sopravvengono delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Quindi se assume cariche ad esempio rilevanti in enti, società, consigli che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto parlamentare. La cosa fondamentale dal punto di vista della garanzia della Costituzione è che sia sempre soltanto il Parlamento a decidere sulla piena legittimazione dei soggetti ad essere deputato o senatore. In questo modo si evita l'interferenza di poteri esterni.